fatto Pjanic però, Gol ha fatto Pjanic. Francesco ha dato quella palla, l'ha accompagnato verso la porta. No, mi sembrava una velocità prima. Gli è stata data bella. Ma fra che ha fatto gol, diciamo anche che ha fatto gol lui, Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Totti verticalmente, pallone strepitoso per il 3-0 di Pjanic. È un gol di Pjanic, ma lo stesso marcatore dice tuo. L'abbraccio Pjanic, Nainggolan, Totti. Assist surreale del numero 10 della Roma. È stato completato poi questo messaggio e questa ricerca perché abbiamo ritrovato il nostro amico, il pubblico che ci ha dato un sostegno importante, ci ha trasferito un entusiasmo altrettanto importante. La squadra ha fatto quello che doveva fare e quindi è venuto tutto abbastanza facile. È stato un bello spettacolo, una bella vittoria dove tutti hanno partecipato e dove tutti si sono divertiti. Questo è quello che dovrebbe succedere sempre. Contro due, Higuain, area di rigore, Higuain, è solo Higuain! Tanto per cambiare, Gonzalo Higuain! Io penso stiamo facendo un campionato straordinario, però a questo punto siamo arrivati lì, abbiamo fatto il record di punti del Napoli in Serie A, abbiamo fatto il record di vittorie del Napoli in Serie A e quindi ci piacerebbe riportare il Napoli per la quarta volta nella sua storia in centro. Insigne lascia passare per Amsic, area di rigore, Amsic la mette in mezzo e Callejon fa subito 2-0 per il Napoli. Dopo 20 minuti vola la formazione di Sarri, vicinissima alla Champions League. Passare l'ultima partita, che apparentemente è semplice, però poi sarebbe sempre completamente errato approcciarla in questa maniera. E l'abbiamo visto stasera con la partita di Verona, quindi partite semplici a priori purtroppo non esistono, quindi dobbiamo rimanere una settimana alla testa sul lavoro, sulla partita, e sperando che ci vada bene, sperando, te l'ho detto, di trasformare questo ottimo campionato in qualcosa di straordinario. I record che abbiamo messo insieme sono poi importanti. L'unica cosa che posso dire è grazie a tutti, grazie a quelli che sono qua stasera perché mi hanno reso questa serata magica e ringrazio tutti i tifosi che mi hanno voluto bene in questa bellissima carriera. Sarà una serata che me la ricorderò per sempre perché è l'ultima, però era giusto che arrivasse, sono contento che è finita nel migliore dei modi e niente, adesso si riparte da domani. Quando sono arrivato secondo mi ha cominciato a spinare la gomma dietro nel rettilineo, se no avrei vinto con un ampio margine. A mani basse. Ha vinto con mani basse, sì. Beh, ieri una domenica dolce, io direi, con molte sfaccettature, con molti colori. Alessandro Marco Tulli, oggi il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Federico Bini in redazione. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Molto bene, dicevo domenica dolce per molti aspetti, abbiamo visto gli applausi di Frosinone, abbiamo visto Schwarzer vincere a Roma e abbiamo ospitato Sandro Donati che non ha fatto sconti a nessuno, questo è accaduto ieri, abbiamo visto Valentino Rossi secondo dietro a Lorenzo e poi quanto alla penultima giornata manca il timbro del notaio che arriverà domenica con i tre fischi finali del campionato, anzi arriverà tra sabato e domenica. Napoli secondo, Roma terza, ultimo tango Sassuolo-Milan con Inter e Roma giudici di ballo del sabato sera, e poi posso dirti che un po' maliziosamente si avvera il sogno di Lotito con Carpi e Frosinone in Serie B, posso dirti che il Palermo surreale anche nelle ultime dichiarazioni di Zamparini, grazie a tutti per la salvezza, ma come, sei ancora salvo, devi battere il Verona, ebbene Palermo surreale di Zamparini si salverà. Da dove partiamo? Ma insomma, da dove vuoi? Da mille storie belle, quella di Toni è chiaramente emozionante ed è un bellissimo addio. fatto bene per la Puerta Grande, con l'applauso del pubblico e anche degli avversari e di tutti. Per di Totti è sembrata un po' una festa a metà, perché Totti pensa di giocare un altro anno, spera di giocare un altro anno, e il Totti che si è visto ieri lo meriterebbe, anche se magari solo per pochi minuti a partita, però sicuramente è ancora in grado di regalare magie. E il resto, la risposta più importante era data il Napoli, perché aveva la partita più complicata, più complicata anche, e l'ha superata secondo me senza grandissimi problemi. Il resto sono storie, sono storie belle, quella di Valentino sicuramente si va a essere competitivo, anche se difficilmente, se non cambieranno le cose, penso potrà vincere il mondiale, però la dignità e la forza che continua, la continuità che continua a esprimere va sottolineata. Sicuramente, insomma, mi sembra, sono d'accordo con te, una bella domenica. No, sei... se è partito lo Frosinone, mi sembra giusto fin da lì questo giro ideale, perché insomma, lo abbiamo detto mille volte, la cultura sportiva in Inghilterra, insomma, vedere le lacrime agli occhi e l'applauso alla squadra di chi alla fine di fronte a una sconfitta comunque batte le mani ai propri giocatori, certo, grazie per l'impegno, è una grande lezione, una grande semplice lezione di cultura sportiva. Guarda, più tardi sarà con noi Roberto Stellone e quindi faremo due chiacchiere Ottimo. Con lui. E, insomma, mi è sembrata una bella domenica di aria pulita. Non so se condividete questa sensazione. 800 24 00 24, numero verde, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Dopo un lungo inseguimento infruttuoso la settimana scorsa, ecco che ritorno su questi schermi Maurizio Crosetti. Ciao Maurizio. Eccoci, da resto, essendo al Giro d'Italia, essere ogni tanto in fuga o staccato, perché il corridore può essere staccato davanti o dietro. Ecco. Ma vai anche da Pardo stasera a Tiki-Taka? Ma no, è in giro per l'Italia. Certo, facciamo allestiamo uno studio tra Catanzaro e Reggio Calabria. Si può fare, no? Ma si può fare. Sarà mica un problema per i potenti mezzi di Pardo. Figuriamoci. No, volevo sottoporvi ieri era l'8 maggio, ma è stato un 5 maggio per due all'estero. Per l'Atletico Madrid, che i sogni di Liga sono stati affossati dal Levante, ultimo in classifica, con gol di Pepito Rossi al 90esimo. E poi la storia dell'Ajax, che è stata pazzesca. È bellissimo anche perché finalmente, l'Ajax, mi scusi se l'ho interrotta, dottore, stava spiegando quale gradino alto 2 centimetri è inciampato l'Ajax. Sì, con il De Graaf Schaap, penultimo in classifica, senza nulla da dire né da fare. Questi De Graaf Schaap avevano anche confezionato una bella torta che oggi potete vedere su tutti i teleschermi, su tutti gli schermi del mondo. E l'Ajax è passato in vantaggio, si è fatta raggiungere 1-1, non è riuscita a segnare il gol del 2-1 ed è stata superata in tromba dal PSV Eindhoven, e questi del De Graaf Schaap hanno twittato: gli avevamo fatto la torta, ce la siamo mangiata tutta noi. No, avevano recitato Vader via Schaap. No, direi che almeno si finirà di usare il solito luogo comune, no? Per dire, quando un campionato lo vincono sempre i soliti, si dice certo, poi facciamo la fine del campionato spagnolo o del campionato olandese, poi è vero che continuano a vincere sempre i soliti, però mettere la possibilità, considerare la possibilità di appunto di inciampare sul gradino basso aumenta poi alla fine anche il gusto di un campionato nel quale ogni tanto, molto più raramente, anche da noi accade, tipo Juve-Verona, no? Ognuno al suo gradino basso, evidentemente ieri era quella giornata lì. Sì, la Juventus era in infradito e il Verona si è concessa la serata di Luca Toni. Però Pierluigi, prima dicevo, abbiamo insomma respirato un po' di aria pulita ieri tra Svizzera e mille altri temi del nostro campionato. Mi sembra un finale di stagione di una discreta pulizia intellettuale, no? Sì, ma questo da qualche anno, e devo dire che maliziosamente viene da pensare che dopo l'ultimo scandalo scommesse le cose siano un po' cambiate. Mi ricordo le partite di 10 anni fa, poi è ovvio che fino a quando non c'è la prova, no, non si può mai dire niente. In qualche caso la prova c'è anche stata, ma insomma c'erano delle partite veramente incredibili, dove anche proprio da telecronista eri poco motivato ad andarci perché sapevi come sarebbe finita, comunque avevi i sospetti forti sul fatto che sulla maniera nella quale poteva finire, e adesso non è più così in molti casi, e sinceramente insomma questo è positivo. Poi si può discutere sulla difesa del Torino ieri, che è stata completamente rivoluzionata, però ci sono anche logiche di turnover, ci sono anche logiche di motivazione. Io ho visto il Torino comunque secondo me essere giocata, sì, il Napoli ha vinto perché è più forte, perché ha affrontato la partita nella maniera più giusta, ma insomma Belotti e Immobile, tanto per citarne due, avevano gran voglia di far gol, quindi sono d'accordo con te, anche da questo punto di vista mi sembra meglio di qualche tempo fa, sicuramente. Hai la stessa impressione, Maurizio? Sì, direi di sì, evidentemente speriamo che si scommetta meno o che si tengano gli occhi più aperti, lo si faccia, spero che non lo si faccia, ma nel caso in maniera un po' meno spudorata, e fatti salvi i diritti di tutti e anche i doveri di tutti nel battersi fino all'ultimo istante, come se contasse ancora qualcosa, senza svendersi speranze o partite. Mi pare che adesso lo facciano tutti, i sommersi e i salvati, no? Uh-huh. E poi c'è anche un modo di essere sommersi, tipo quello del Frosinone ieri, con applausi dello stadio e quant'altro, che ci riconcilia un po' anche col concetto di sconfitta, no? Sì, perché certo. Evidentemente la sconfitta non è per forza un'umiliazione, non è per forza un fallimento. Puoi essere sconfitti in Serie A dopo esserci arrivati in quel modo, se ti chiami Frosinone è comunque un successo. Stanno venendo su, anzi sono venuti su Crotone, insomma, alla faccia di chi non voleva i nomi piccoli e di qualche latinista schizzinoso, ecco che invece il campionato continua a dare questa possibilità, e direi che la scena davvero più bella della domenica è proprio quella di Frosinone, quella del pubblico di Frosinone, dopo troppe scene di vessazioni, di riti tribali, giocatori costretti a togliersi le magliette, a... Beh, anche ieri a Genova abbiamo avuto un discreto esempio con la Kerel, Osti, Montella che abbiamo queste voci? Mandiamole. Beh, la contestazione penso che sia giustissima. La società chiede scuse ai tifosi per la partita indegna che è stata giocata, anzi che non è stata giocata. Queste sono esternazioni pro tifosi, io non mi sento indegno perché io lavoro 18 ore al giorno, magari posso lavorare male o bene, ma ci metto il massimo impegno io con il mio staff, così come i calciatori. Scusami. Bisogna saper perdere, accettare il verdetto del campo e fare complimenti agli avversari, anche se per noi si chiama Genova oggi, e avere un equilibrio nel parlare, nelle esternazioni, perché abbiamo una responsabilità importante verso i tifosi. Ci salviamo grazie ad altri risultati su altri campi. Sicuramente è stato un campionato fallimentare, penso che la proprietà e la società abbiano fatto di tutto. D'altronde anche lo stesso allenatore Gennaio ha detto che la squadra è stata cambiata, ovviamente anche insieme aveva fatto certi cambiamenti, i risultati non si sono visti. Io sto con l'aeroplanino, non so voi ragazzi, Pardo e Crosetti. Anch'io sto con l'aeroplanino, perché in assoluto non si deve chiedere scusa, in assoluto, per carità, si può essere rammaricati per una sconfitta, ma che c'entra? E poi ci sono dichiarazioni che sono fatte chiaramente per far contenti i tifosi, non mi pare molto... E poi, al limite dillo nello spogliatoio, cioè, in questo modo apri una frattura... tanto difficile da sanare, probabilmente Montella se ne andrà forse addirittura in nazionale, ma al di là di questo non fai una bella figura, insomma, non si litiga mai in piazza, mamma e papà non devono litigare davanti ai figli, mai, litigate con la porta chiusa. Sì, Pier? Sono d'accordo perché penso sinceramente che anche la parola indegno forse non andava, come dice Crosetti, pronunciata in pubblico. No, se io vuole penso dice che, il giocatore. Che ci sia questo grande pericolo di far pensare alla gente che chi perde è perché ha voluto perdere o perché non ha voluto impegnarsi o perché non ha voluto vincere. Chi perde, perde perché è più debole, perché c'è un altro che è più forte. E questo è un concetto molto molto semplice, ma anche molto difficile certe volte da catturare, soprattutto ovviamente quando sono partite come il derby, come ieri, che è una partita importantissima dal punto di vista dei tifosi, è persa così male. Quindi io posso capire la rabbia, posso capire l'amarezza, ma è molto pericoloso il sottotesto di questo tipo di ragionamento. La Samp ieri non ha perso perché è stata indegna, la Samp ha perso perché il Genoa è stato molto più forte, poi certo. Probabilmente la Samp l'avrà preparata male, che Amen, sia stato, no? un fallimento il progetto di Montella alla Sampdoria questo è un discorso che ci può stare, ma, certo. Ma ti ripeto, la pericolosità è quella roba lì, perché se no poi se tu perdi una coppa contro un'avversaria e ci tieni tanto, ti trovi i pomodori o peggio le pietre sul pullman. Non deve passare questo ragionamento, non deve passare questo concetto. si perde perché non si è stati abbastanza bravi, si perde perché c'è qualcuno che è più forte di te, perché tu hai dato tutto e quel tutto che hai dato non è stato all'altezza. Poi si può ragionare, sicuramente ci sono storie virtuose in questo campionato e storie meno virtuose, allenatori che hanno fatto bene, allenatori che hanno fatto male. Il messaggio secondo me a Montella è chiarissimo, del resto era arrivato prima della partita, quindi figuriamoci dopo una partita del genere. Però sono d'accordo soprattutto nel sottolineare la pericolosità di questo ragionamento. Sì, sì. Sentiamo il signor Gianfranco da Verona, buongiorno. Pronto, buongiorno. Ci dica. Volevo un giudizio da parte vostra sulla faccenda Totti. Sulla faccenda Totti? Sarebbe importante, non, perché non sono più capace neanche di dormire, sulla faccenda Totti. Cioè, addirittura. Una bandiera, attenzione, ma un attimo, per dire, una bandiera come Totti, attenzione che sono di Verona, per cui mi piace il Chievo, mi piace Verona, mi piacciono le squadre che giocano, c'è solo quelle squadre che sono italiani. Italianizzati, sì. E che hanno il maggior numero di persone italiane, per cui sarei contento di parlare. Però Totti, quando l'hanno lasciato fuori il signor Spalletti, l'ha messo in tribuna una bandiera, attenzione, una bandiera che abbia fatto adesso le ultime partite, che abbia sollevato la Roma per merito suo, perché gli altri non avevano altro. Mi domando come si fa a mettere una bandiera Totti, che è diventato una persona abbastanza decente, buono, come persona anche interna, dentro di lui, a parte il gioco. Beh, lo si mette, Gianfranco, lo si può escludere per ragioni tecniche, fisiche, tattiche, come ha spiegato più volte Spalletti. Però adesso il discorso è che Totti avrà il contratto a furor di popolo. No, ragazzi. Non lo so. No? Non lo so, penso di sì e penso che la Roma farebbe bene, perché il valore anche economico, commerciale, visto che questo è un ragionamento che fa sempre una certa presa nel calcio di oggi, anche dal punto di vista commerciale Totti è un valore, e quindi arrivare a una rottura con Totti è sbagliato, è doppiamente sbagliato, lo è dal punto di vista sentimentale, lo è dal punto di vista pratico. Quindi io penso che alla fine questo tipo di accordo arriverà. Penso anche però che la gestione di Spalletti del giocatore Totti sia stata una gestione quasi perfetta. A me, lo sapete, non sono piaciute, cioè non ho capito, mi sono sembrate stonate un paio di dichiarazioni di Spalletti, sì, di qualche tempo fa, ma dal punto di vista della gestione in campo del calciatore è stato perfetto, e anzi ha tirato fuori il meglio di Totti. Non che Totti, per carità, avesse bisogno, però insomma è stato uno stimolo. Ci sono dei momenti della vita, come diceva l'altro giorno per esempio Totti, in cui hai bisogno di qualcuno che non sia amico, che ti dice delle cose, che ti porta a superare il tuo limite, perché magari ti fa notare delle cose di te che quelli che ti amano alla follia, non ti fanno notare. E devo dire che Totti ha dimostrato alla fine grande umiltà, e dimostrerà ancor più umiltà se si sottoporrà volontariamente all'agonia di un'altra stagione così l'anno 21. Io su questo non cambio pensiero, e francamente non lo capisco. Fossi Totti non accetterei mai di quel ruolo, da grosso modo da capitano, non giocatore. Non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo, Maurizio, se no ti... Ma sì, l'abbiamo detto ormai troppe volte. Tutte repliche. Però sì, vi dico che sarebbe, dal punto di vista della narrazione, oggi di moda questa parola, ritirarsi la sera della doppietta contro il Toro sarebbe stato perfetto. È anche impossibile, è anche ingiusto forse. Ha segnato Totti i gol che servivano a lui e alla Roma nel momento giusto, anche per poter continuare ancora per un anno, purché inevitabilmente con un anno in più si sappia che questi tormentoni diventeranno anche tormenti forse, e che tra un anno si rischierà di essere di nuovo qui a dire ma deve giocare 3 minuti, 7, 12, 20, e se lui sa che quello è il suo ruolo, lo sa, e che può essere un acceleratore nucleare, no? Accelerando le particelle della Roma nel finale delle partite, e questo gli basta e gli avanza, e per il resto fa l'icona e fa Totti. Va bene così, però non è facile poi gestirlo per l'allenatore, chiunque sia, che sarà Spalletti fino alla fine dell'anno, per i tifosi, per la società, in un luogo come il calcio italiano e in un luogo come Roma dentro il calcio italiano, che alle volte nel bene e nel male enfatizza le emozioni, le situazioni, no? Quindi è tutto più difficile, però sei anche Totti, no? Se non fosse Totti, quello che fa i passaggi sulla nuca, riuscirà anche a passare se stesso il pallone giusto. Poi ci sono anche, ieri è stato bello anche, insomma, l'addio ad una bandiera di un dio minore come Bellini, 16 anni di Atalanta, che ha salutato il pubblico segnando un rigore. ci sono anche queste storie. Non sarà Totti, ma pure questa è stata bella. Un'ultima cosa, Maurizio, si avvera il sogno di Lotito, dicevo prima un po' maliziosamente, Carpi e Frosinone tornano in Serie B. Zamparini ha già festeggiato la prova. Carpi Diem, naturalmente. Carpi Diem, certamente. Carpi Zamparini Diem ha già festeggiato la salvezza con una giornata di anticipo. C'è una partita col Verona, ma che vuol dire? Lui non se lo merita, per esempio. Per nulla. No, per niente, io vorrei retrocesso ad honorem. Lo so che adesso a Palermo si incavolano, ma io amo la Sicilia, i palermitani e tutto. Però un presidente che si comporta in quel modo dovrebbe partire sempre dalla Serie B e lì restarci. Ecco, l'ho detto, a Ugg ho parlato. Poi, no, soprattutto di fronte a un Frosinone che applaude, no? Certo, certo. E questo caccia, trita, tritura, fa le scene e poi si salvano. Non c'è giustizia, con tutta l'affetto che abbiamo per il Palermo. Vabbè, questo l'avevamo sospettato anche prima del campionato di calcio, stando sulla terra per qualche decennio, esatto. Che non ci fosse giustizia, questo sospetto l'avevamo avuto, però vabbè. Grazie Maurizio, un abbraccio. Ciao, ciao. Alla prossima, ci fermiamo per la borsa, torniamo subito. Sì, un avvio abbastanza scoppiettante, laser, fumogeni e bomboni. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta Si ricomincia. Tutti convocati. Ecco il pallone di ritorno, c'è tempo per il traversone, Cannavaro! Si è svegliato Toni, è arrivato Toni. Mister Eugenio Corini, buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao, senti, dolcissimo il cucchiaio con il quale il tuo amico Toni, che so che siete amici veri, ha salutato il calcio e ha battuto la Juventus. Ma diciamo una serata perfetta, sicuramente in un'annata non bellissima per la società, visto che retrocessa, diciamo che ieri hanno fatto un bel regalo a tutta la tifoseria e allo stesso Luca, che insomma ha sancito questo addio al calcio con un rigore di classe, una vittoria contro la vincitrice dello scudetto. Non poteva chiedere di meglio, di sicuro. No, domenica perfetta, ma anche bello l'addio di, stavamo parlando prima con Crosetti, magari bandiere di un dio minore, ma anche quello di Giampaolo Bellini all'Atalanta, con gol su rigore anche in quel caso lì. Poi è chiaro, sì, Pasquale alla Fiorentina. Pasquale alla Fiorentina. Non lascia il calcio, ma insomma lascia dopo 11 anni da protagonista. Insomma, è bello che le tifoserie comunque hanno ricordato questi giocatori importanti, sia per il loro rendimento, per il loro atteggiamento, soprattutto la loro professionalità, e questo è bello che la tifoseria abbia riconosciuto loro questi. È sicuramente il modo migliore per Bellini e Luca, Toni che lasciano il calcio, per Pasquale che lascia una società a cui è legato tantissimo. Certo. Anche tu l'impressione, anche di questo parlavamo prima, che comunque sia un finale di campionato piuttosto pulito dal punto di vista dei risultati, cioè ci si impegna il giusto e fino alla fine, nella maggior parte dei casi, non in tutti i casi. Sto pensando alla Lazio che inguaia in maniera pressoché definitiva il Carpi, sto pensando ad altri risultati che mi portano a credere che sia un finale di campionato accettabile rispetto ad altre volte. Sì, come è giusto che sia, sì. Dovrebbe essere sempre così, liberi, ogni squadra va in campo a prescindere dall'obiettivo che può andarsi a prendere, quello di giocarsi la propria partita per cercare di vincerla, ed è così che si delineano i campionati, dovrebbe essere sempre così. Eugenio, quanta strada c'è tra la Juventus e chi le sta immediatamente dietro? Napoli, Roma, le milanesi mi sembrano piuttosto staccate, lì la strada mi pare lunga. Ma oggettivamente, vedendo il campionato di quest'anno, che aveva fatto pensare a tutti di una Juventus in calo, a vedere il girone di ritorno da prima di dicembre, che percorso è iniziato, è stato veramente un rullo compressore. Nonostante un Napoli straordinario e una Roma che da quando è tornato Spalletti ha mantenuto una media punti straordinaria. Così di prima acchito sembra dura recuperare terreno in un'annata. Poi il calcio è molto bello perché a volte regala delle dinamiche che sono difficili da comprendere. Lo testimonia il Leicester quest'anno, che vince la Premier League, è il campionato più ricco del mondo. E di conseguenza, vedendo anche che tipo di campionato hanno fatto Roma e Napoli, penso che le milanesi cercheranno di operare in una determinata maniera, il gap si possa ridurre, non so se per riuscire a superare la Juventus, ma per rendere sempre di più il nostro campionato competitivo per il primo posto. Sì, Eugenio, so che il Palermo ti sta vicino al cuore, si salverà probabilmente, anzi, è certo, Zamparini ha già detto grazie a tutti per la salvezza, c'è un c'è il Verona da battere. Minimo cauto, visto anche che il Verona andrà a carra la pelle a fine, dove ha fatto due vittorie straordinarie contro il Milan e contro la Juventus, dunque una squadra in salute, e questo è un merito di mister Del Neri. Sicuramente la giornata di ieri è un passaggio importante, ma non ancora decisivo, perché se Palermo non batte Verona domenica, il Carpi basta un punto per salvarsi. Sì. Di conseguenza bisogna stare molto attenti, anche se oggettivamente il punto di ieri a Firenze significa molto, ma mi immagino un Barbera stracolmo e strapieno che spingerà la squadra verso la salvezza, e penso proprio che ce la faranno, però oggettivamente bisogna sempre andare molto cauti, prima raggiungere l'obiettivo e poi festeggiarlo. Sì, anche se c'è chi sottolinea, un ascoltatore via WhatsApp, vedrete come si scansa il Verona col Palermo, ci sono 5 milioni in più per gli scaligeri col paracadute, famoso paracadute previsto dalla Lega, se retrocede il Carpi, le belle manovrine della Lega, anche su questo bisognerebbe un giorno riflettere. Qual è il calcio che ti è piaciuto di più in questa stagione, Eugenio? Ma devo dire che il Napoli è stata una squadra bellissima e godibile da vedere, ha sempre fatto un calcio veramente d'attacco, di grande intensità, ha avuto continuità, ha solo trovato una Juventus stratosferica, è vero che ha avuto un leggero calo, ma era anche fisiologico, e ha fatto anche un'ottima Europa League, e peccato che ha beccato il Villarreal, perché è una squadra di fatti che è giunta alle soglie della finale. Il Napoli è stato veramente straordinario, e la Fiorentina fino a un paio di mesi fa, perché comunque ha giocato un calcio interessante, fatto di tante tecniche, di tante verticalizzazioni, e devo dire che fino a un paio di mesi fa la Fiorentina ha tenuto un livello molto molto importante, e secondo me rimangono le squadre che da quel punto di vista hanno fatto vedere il Napoli, Napoli ha perso un po' troppo in trasferta, 6 sconfitte in trasferta, con quei numeri non puoi pensare di vincere lo scudetto, e poi magari Sarri insomma avrà bisogno di una rosa un po' più lunga, e magari di un po' più di coraggio nella ruotazione degli interpreti. Io non sono favorevolissimo al turnover, però in alcune situazioni può permetterti di allungarti la vita. Si parla di crescita, e se tu vai a parametrare gli ultimi campionati del Napoli, i numeri sono straordinari, dunque c'è sempre un percorso da fare, e sicuramente sia Sarri che lo società trovano indicazioni da quello che è stato il percorso di quest'anno e dove si poteva far meglio nella composizione della rosa, nei ricambi, anche perché l'anno prossimo il Napoli avrà, penso, alla Champions League, e di conseguenza dovrà fare una rotazione di un certo tipo per reggere entrambe le competizioni. Questo sicuro. Grazie Eugenio. Bocca al lupo, ciao, lavoro, presto. Ciao Eugenio Corini. Paolo. Paolo. Sì, buongiorno. Volevo solo, sono tifoso del Milan, ma volevo fare i complimenti alla società Juve per quello che sta facendo in questi anni. Purtroppo, alla luce dei risultati del Milan con la programmazione, credo che le abbiano azzeccate quasi tutte, insomma, quindi con un po' di rammarico, ma devo essere sincero, fare i complimenti a una società che non ne ha sbagliata una. Cosa contraria per quanto riguarda il Milan. Ne ha sbagliata qualcuna in fase di ricostruzione, e poi poi ha cominciato a mettere i tasselli al loro posto. Io volevo chiedere, questo l'ho andato a vedere nella mia unica occasione a Sassuolo, perché abito lì vicino, Sassuolo-Milan, il Sassuolo ha nettamente meritato, poteva anche vincere 3-4-0. 10 italiani su 11 in uno stadio di proprietà pulitissimo, ottimo, ma quindi mi meraviglia che il Milan non prenda quelle strade. L'unica cosa che mi era rimasta, siccome mi ero tenuto alcuni rilievi su internet del caso di Calciopoli, ma la Juve poi ha fatto causa a Moggi oppure no? Ecco, questa è una domanda che volevo lasciare a voi, perché non l'ho più, siccome avevo saputo che la Juventus, visto i casi passati, voleva rivalersi su Moggi, poi non ho più sentito niente. Non mi pare, ma guardi, tendo a non seguire con grandissima attenzione le code, le lunghissime code di quella vicenda. Quanto al Milan, lei si domanda perché non prende quelle strade. Il Milan sta cercando una strada. Fino a quando non imboccherà con decisione quell'unica strada possibile, cioè o rimane Berlusconi con pieni poteri e dichiara la catena di comando e dichiara qual è la direzione che si vuole prendere, oppure Berlusconi decide una volta per tutte di cedere e ovviamente segue la strada della cessione, non ci sono altre due vie, poi tutto il resto secondo me parlare di futuro, allenatori, campagna acquisti è tutta aria fritta. Ci fermiamo per un attimo, traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Cesare, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Dica. Un'osservazione, lei che capisce di queste cose, più di tutti noi, ma se la Roma è arrivata terza, quindi arriverà, è stata praticamente ai preliminari di Champions, ma non conveniva arrivare a questo punto quarti, perché iniziare una preparazione per giocare a fine luglio, inizio agosto, un mercato Cesare, di solo 7 giorni, era economico. Ma abbia pazienza, ma chi rinuncia alla Champions League? Arrivare quarti, l'Inter avrebbe fatto qualunque cosa per essere al posto della Roma. Chi rinuncia alla Champions League? Poi preparazione, mica preparazione, possiamo discutere su un preliminare di Europa League, cosa che potrebbe toccare al Milan o al Sassuolo, ma sulla Champions League proprio non conviene arrivare quarti, guardi, glielo assicuro. Voglio farle sentire a lei e a tutti quanti questo. Pagina sonora più bella della domenica, una delle più belle del campionato. Questi sono gli applausi del Matusa per il Frosinone. Uno stadio intero che applaude una retrocessione. Non si tratta di essere romantici o sdolcinati, però è una cosa a cui semplicemente non siamo abituati. Nemmeno Roberto Stellone, che è stato l'allenatore di questa squadra. Ciao Roberto. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a te. Non siamo abituati a queste cose. No, in effetti è una cosa che a me da calciatore in 15 anni di carriera non era mai capitata, e in Italia penso che non sia mai capitata, forse in Inghilterra, insomma, una squadra che retrocede accolta in quel modo dalla tifoseria. Hanno fatto veramente un gesto incredibile, qualcosa di straordinario, veramente li ringrazio, perché hanno dato veramente una dimostrazione di sportività. Sì, a me verrebbe voglia di dire la faccia di Lotito, ma non lo dico. È stata una domenica tutto sommato bella, no? Questi applausi a Frosinone, Schwarzer che vince a Maratona di Roma. Prima ho detto, contestato da molti ascoltatori, una domenica di aria pulita. Sei d'accordo? Sì, noi peccato, abbiamo perso sì sul campo, perché con la sconfitta di domenica con il Sassuolo ci ha fatto retrocedere, però usciamo da questa Serie A a testa alta. Dispiace, perché ci tenevamo per noi, per la società, per i tifosi a rimanere, ma non ci siamo riusciti, però veramente il pubblico ha vinto, ha dimostrato di essere un pubblico da Serie A. Sì, quali sono i programmi futuri tuoi del Frosinone? Ma io ho un contratto in scadenza, veniva rinnovato in automatico in caso di salvezza, non c'è stata, e in questi giorni parleremo con la società. Ma l'idea del Frosinone è comunque quella di tentare subito una nuova scalata, secondo te? Ma penso di sì, perché o con Stellone o senza Stellone la società è forte, i giocatori sono validi e quasi tutti stanno sotto contratto, quindi i giocatori che hanno vinto il campionato un anno fa e sono prontissimi a ridisputare un campionato di Serie B, la società ha intenzioni, secondo me, come ho detto prima, con Stellone o senza Stellone, di ritentare subito la risalita. Rivedendo il fine del campionato, c'è un momento in cui nel quale cambieresti qualcosa, potendo riavvolgere il nastro? Ma dei momenti negativi ce ne sono stati tanti, la squadra ha sempre reagito, e forse la partenza dopo 4 giornate e magari un po' di inesperienza nelle prime 4 gare, abbiamo disputato buone gare ma abbiamo raccolto 0 punti, abbiamo pagato un po' quella partenza così, e nel periodo decisivo, in queste ultime gare, un po' di sfortuna, un po' di situazioni negative non ci hanno permesso di fare quei punti che ci servivano. Senti, domenica sera per chiudere andrete a Napoli, una città che è una squadra che ti stanno ancora vicino al cuore e che si gioca moltissimo. Come sarà il tuo sabato sera? Ma è normale, arriviamo noi a questa partita senza nessun obiettivo, e il Napoli sarà una partita fondamentale, perché davanti al proprio pubblico cercheranno di vincere per mantenere il secondo posto, e noi onoreremo questa gara con il massimo dell'impegno, cercando di dare il massimo, insomma, cercheremo di, di sputare una partita di impegno, di sacrificio, perché sarà una partita difficilissima, ma ce la metteremo tutta per arrivare fino alla fine questo campionato. Poi c'è quel mostro assatanato di Higuain che cerca il record di Nord, gli mancano due gol. Sì, e cercheremo anche, a maggior ragione cercheremo di mettercela tutta per non farli fare gol. Insomma, Higuain ha fatto un campionato fantastico come tutto il Napoli. Sarà difficilissimo, ripeto, perché è una squadra che gioca a memoria, che gioca benissimo, ma ci proveremo. Certo. Roberto, prima di salutarti, c'è una signora, la signora Annarita, che ti voleva dire qualcosa, è un'ascoltatrice. Buongiorno. Buongiorno, io sono di Frosinone e sono una tifosa del Frosinone da tantissimo tempo, da quando ero bambina, e sono fiera della mia città e dei miei giocatori, della mia squadra, perché abbiamo giocato con impegno, con passione, con dedizione. Non abbiamo vinto, però non fa niente, abbiamo vinto una cosa ben più importante, abbiamo dimostrato che si può anche perdere, si può perdere con allegria, con fierezza e con dignità. Ecco, e volevo ringraziare voi perché avete detto che anche che Frosinone ha contribuito, la città, i giocatori, a rinnovare l'area di questo calcio. Speriamo che dia buonissimi frutti. E a Stellone cosa chiede, signora? Di continuare con il grande impegno, perché noi siamo con lui, con i suoi giocatori, con tutti i ragazzi, sempre, sempre. Oggi siamo vestiti di giallo-blu, ancora continuiamo ad essere vestiti di giallo-blu. Beh, Roberto, mi sembra che questa sia la sintesi, no? Sì, sì, la sintesi di quel pensiero. Incredibile. Sì, sì. Ringrazio la signora per le belle parole e il pensiero di tutta Frosinone, e hanno comunque sostenuto e applaudito questa squadra nonostante la regressione. Vuol dire che comunque hanno visto la squadra dare l'anima in campo, quindi questo è un motivo di orgoglio anche per me che allenavo questi ragazzi. Grazie Roberto, grazie buon lavoro, grazie e complimenti. Messaggi: ieri non abbiamo applaudito il Carpi come hanno fatto a Frosinone, perché Mbakogu ha zittito la curva dopo i due rigori sbagliati. Il Balotelli dei poveri ci fa andare in B, tristezza infinita. Ieri partita abbastanza surreale, quella di Modena, così come, ripeto, surreale. E lasciatemi dire, amici di Palermo, non me la prendete, sportivamente non meritata la salvezza che il Palermo andrà a conquistare. Palermo come organico è certamente un po' più forte rispetto a quelle che retrocederanno, però dopo tutto il casino che Zamparini ha combinato, soprattutto Zamparini, certamente non la città di Palermo, sia chiaro, però una retrocessione, un bagno di Serie B, secondo me ci stava. Invece scenderanno appunto Carpi, Frosinone e Verona. Dunque, Verona che sarà di cena a proprio Palermo domenica. Non credo che ci saranno grandi problemi per Zamparini nel prendere quei punti che garantiranno la permanenza in Serie A, in attesa di papparsi altri allenatori l'anno venturo, ovviamente. Ci fermiamo per il GR e poi torniamo con molti altri argomenti, tra cui Roberto Ungaro, le moto, tra cui il Giro d'Italia, tra cui ancora il calcio. A dopo. Finisce qua, senza recupero il primo tempo. Gran spettacolo. Tutti convocati. Inizia la settimana della moda. Il giallo è il colore di questa stagione. Fresco, solare, mai banale. Nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Che dire? Arieccici. Convocati. È stata colpa mia, perché ieri in qualifica ho sbagliato, ho fatto due errori che mi sono costati almeno la prima o la seconda fila. Poi anche oggi sono partito male, siamo arrivati un pochino in ritardo, però è andata bene perché abbiamo mantenuto la calma, sono riuscito comunque a fare una bella rimonta, dei bei sorpassi, e questi 20 punti valgono oro, perché ci siamo avvicinati alla vetta, siamo tutti tre lì vicini in 12 punti, quindi è bella. Questo Valentino Rossi, davanti a me Roberto Ungaro. Ciao Carlo, voce sul tutti. Moto Mondiale, e rimarremo poi su due ruote, andremo anche un po' sul ciclismo. Saluto e ringrazio Silvano Galbusera, che è il capo tecnico di Valentino Rossi. Grandissimo. Ciao Silvano. Buongiorno a tutti. Ciao Silvano, ciao. Ti lascio interrogare da Ungaro, che è cattivissimo. Lo so, lo conosco molto bene. Grande Silvano, innanzitutto complimenti. Senti, sono in tanti a dire e a chiedermi: ma se fosse partito lì davanti, Valentino, che gara sarebbe stata? Ce l'avrebbe fatta a dargli fastidio, a inzigarlo e anche magari a fare suo il più alto gradino del podio, oppure no, secondo te? Non possiamo essere certi al 100%, io sono sicuro che avrebbe tentato di dargli fastidio, almeno di mettersi dietro o cercare di superarlo all'inizio della gara. Vale all'inizio era molto forte, ha fatto anche il giro veloce della gara, per cui si sentiva molto bene. Però sappiamo anche che Jorge su quella pista va abbastanza, cioè va sempre bene in qualsiasi situazione, per cui dobbiamo aspettare ancora un po' di tempo e vedere se succederà un duello ancora ravvicinato. Certo, come Jared, perché lì ha girato, è stato un martello Orge, tanti 33, mentre invece Valentino qualche 34 in più, se si guarda l'economia della gara, vero? È vero, no? Ma il Valentino, quando ha visto sulla lavagna che Marquez e Dovizioso erano fuori, se l'è presa con calma. Ha mollato. Senti, non riesco più ad andare a prenderlo, è rischioso, è meglio portare a casa un risultato. Certo. Senti, ma dato per scontato che di testa Valentino lo schiaccia nella strategia della gara, come psicologia, come portarlo allo sbaglio, secondo te qual è il punto dove lui veramente può, invece, punto specifico, cioè la staccata, se Valentino passerà un domani il vero sorpasso di Valentino su Lorenzo, tecnicamente, dal tuo punto di vista, qual è? Staccata? Anche Jorge è abbastanza forte staccata, per cui tra i due non lo saprei proprio come. Però l'accompagna di più Jorge nella sua percorrenza alla curva, quindi sì, invece sì, Valentino, sì, diciamo, vero? Che lì alle man Valentino si sentiva molto forte e sicuramente ci avrebbe provato in staccata. Però come sarebbe andata a finire non lo so. Senti, tu da capo tecnico, da regista di Vale, chi preferiresti al suo fianco l'anno prossimo, Pedrosa o Vignales? Di' la verità. Non lo so, nel senso, se fossi la Yamaha punterei più su un giovane. Ragione, vero. Però è da vedere loro che cosa vorranno fare. Comunque Vignales, tra virgolette, ancora qualche anno prima di prendersi responsabilità di dover vincere il mondiale. Deve dimostrare ancora. Sì, lo può fare con la Yamaha direttamente una moto già competitiva, oppure partecipare allo sviluppo ulteriore di una Suzuki. Certo è che un Pedrosa sarebbe un compagno perfetto, perché grande rispetto, e poi sappiamo che Dani tutto è tranne che aggressivo, mentre invece un giovane non la manderebbe magari a dire, cioè avrebbe forse meno timore reverenziale un Vignales nei confronti di Vale. Sì, ma secondo me Vale è quello che cerca, nel senso, lui vuole avere un compagno forte per poter essere competitivo, per poter dimostrare di essere davanti. Non credo gli faccia piacere avere qualcuno scontato che arrivi dietro. Sai qual è il problema, Silvano? Trovare qualcuno che vada al fianco di Valentino, perché ancora prima di partire ti uccide, ti schiaccia la sua ingombranza psicologica e quello che è, insomma. Vale. Purtroppo dopo una vita nel paddock, su tutte le piste, e ancora adesso è uno da battere. Comunque abbiamo resettato tutto, 1-0 ciascuno per i primi tre, andiamo al Mugello con ancora più spettacolo, è vero o no? Si è resettato. Ma sono quasi convinto che uscirà una bellissima gara, perché vedo Valentino molto in forma. Con la Yamaha siamo abbastanza a posto, si tribola più o meno dell'anno scorso, bisogna stare molto attenti con le gomme, perché sono sempre lì vicino al limite, per cui non riesci mai a capire se sei oltre o se sei vicino. Per cui potrebbe uscire una bellissima gara tra, compresi le Ducati, almeno in 5. Sì. Mm. Comunque mi aspettavo più un'insurrezione da parte dei piloti per tutte le cadute sull'anteriore. Invece mi hanno detto che non si sono lamentati più di tanto. Solo forse Iannone ha detto che un po' il non riesce a capire il limite. Il concetto è che la gomma Michelin è migliorata molto durante i test invernali e adesso. E con le ultime evoluzioni che stiamo usando, abbiamo già provato dopo Jerez un'evoluzione ancora della gomma anteriore che sembra ancora leggermente meglio e arriverà penso a breve. Il concetto è che i piloti un po' più esperti riescono ad avvicinarsi al limite. Perché non si riesce a capire, la Bridgestone dava qualche avvisaglio, uno arrivava o oltrepassava il limite, sentiva che stava per chiudere, riprendeva e sapeva che quello era il limite. Qui non lo sai finché sei caduto, cioè quando arrivi lì che stai per cadere è troppo tardi. Era progressiva nel partire, nel perdere aderenza, mentre invece qui pam, progressiva, perché uno riusciva ancora a correggere e modificare il suo stile di guida per recuperarla. È abbastanza famoso il recupero di Marquez a Brno. C'erano delle foto, dei filmati che già sdraiato è riuscito a ritirarla su e andare. Vero, così. Vero. Si è appoggiato, ha fatto perno sul gomito. Esatto, con una Michelin è impossibile. Grandissimo Silvano, sai Carlo, pochi lo sanno, ma Silvano ha vinto nel cross, ha vinto in superbike e ha vinto in... ce ne sono pochi di registi così. Sì, perché tutti ti vedono lì davanti. Sai, con Valentino è facile vivere di luce riflessa, ma il tuo passato, per chi lo conosce, ragazzi, senza pari. Complimenti ancora. Senti, ti chiedo una cosa Silvano, anche perché sono diversi messaggi SMS che mandano gli ascoltatori e che riguardano i problemi, i maledetti problemi con le qualifiche di Valentino. Andrea, gli chiedi perché Valentino soffre sempre nelle qualifiche. Valentino aveva il passo gara per giocarsela con Lorenzo, peccato per l'errore in qualifica, scrive Matteo. È questo il tallone d'Achille, perché Lorenzo perfetto in qualifica, se si trova lì davanti parte come un missile, fa i primi tre giri in cui massacra tutti e poi chi lo prende più. È vero, ma se andiamo a vedere i risultati di quest'anno, sono molto migliorativi rispetto all'anno scorso. Quest'anno battagliamo tra la prima fila e la seconda. Qui forse Valentino non era convintissimo del suo passo e ha voluto mettersi in mezzo e la caduta di Pedrosa, perché lui doveva fare ancora un giro, poi dopo fermarsi, cambiare le gomme e rientrare. E sarebbe rientrato senza il traffico. Invece gli è caduto Pedrosa davanti, per cui ha rovinato un po' il giro, ha detto rientro subito così anticipo. È stata una tattica sbagliata, ma secondo me lì poteva fare forse non la prima, la seconda, subito lui quarto, quinto ci stava. E poi non so se il risultato della gara sarebbe cambiato, sicuramente avrebbe fatto meno fatica, sarebbe partito vicino Jorge e poi chissà. E poi chissà. Poteva esserci battaglia. Grazie Silvano. Sì, dimmi. Se dovesse uscire una gara come a Jerez sarebbe noiosa, invece un Valentino dietro magari è vero, dà un po' più di spettacolo. Ma io mi sono annoiato pochissimo, anzi mi sono divertito come un pazzo. No, io Silvano, hai ragione, un po' di sorpassi in più ci vorrebbero, perché altrimenti sì. Comunque complimenti ancora, in bocca al lupo Silvano. Bocca al lupo Silvano. Grazie mille. Ciao. Grazie Silvano Garbusera. Ciao. Capo tecnico di Valentino Rossi, bella chiacchierata. È un grandissimo, sì, molto bella. E anche un ascoltatore che si chiama Loris, buongiorno. Buongiorno caro Carlo. Buongiorno caro Loris. Grazie per la trasmissione e grazie per essere stato convocato. Io avevo un piccolo sassolino della scarpa da togliermi. Riguardante Valentino Rossi. Sì. Ti ricorda, dopo le prime domeniche di gara, dove mi sembra che sia successo il contatto tra Iannone e Dovizioso, sì. Il lunedì mi sembra che lei ha invitato un giornalista alla quale ha detto alla fine: ma dice, credo che sarà molto difficile che vedremo ancora Valentino sul podio. Se lo ricorda? Doveva essere, eri tu Roberto? No, non lo so. Normalmente io parlo con Roberto Ungaro. Hai detto difficile vedere sul podio? No, io ho detto difficile rispetto all'anno scorso, cioè come era iniziata la stagione l'anno scorso. Quello avevo detto sicuramente, perché l'anno scorso Valentino davanti dall'inizio alla fine praticamente era una situazione difficilmente replicabile per quest'anno, per come andavano le cose. C'era l'incognito ovviamente gomma elettronica, però lungi dal dire che Valentino non sarebbe ritornato sul podio, anzi. E adesso la classifica è lì da leggere. Lorenzo 90 ha fatto sorpasso su Marquez, il quale ne ha 85 di punti e Rossi 78. pacchetto stretto. In 12 sono lì e tutti attaccati, quindi si riparte il campionato, è come se si fosse resettato. Valentino lo sappiamo tutti qual è il suo passo e lo conosciamo, ma soprattutto la strategia, la potenza in gara di testa nel sapersela gestire. È partito dalla terza fila, ha avuto molti rischi di contatto con gli Espargaró in mezzo a quel gruppo dietro, però poi si è liberato e grandissimo sorpasso in staccata a Marquez, senza mandargliela dire. La sua gara onestissima, anzi con la partenza che ha fatto, scommettere sul secondo posto non c'era da farlo con tanta sicurezza. Forse non, qualche nuovo al telefono, lo so, ma non ero io quello che ha detto. Non saprei. No. 800 24 0024. Per chi era il Sassolino? Per chi era? Visto Norris, che era così. Ma non si ricorda. C'è qualcuno che ha detto che l'antico, no, ma non forse si è detto che sarebbe stato difficile combattere per il campionato. Quello sì, sul gradino più alto del podio del campionato. Assolutamente. Quello sono d'accordo ancora oggi. Andrea, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao a tutti. Senti, volevo fare una piccola riflessione su questo finale di campionato di IDB. Sì. Vedo che Lanciano a due giornate dalla fine si ritrova con una penalizzazione che probabilmente la manderà in Lega Pro, e all'ultima giornata avremo Palermo-Verona. E leggo, ho letto poco fa che qualora il Verona vincesse si priverebbe di un bel gruzzoletto di 5-10 milioni di euro. Sembra strano che ancora oggi nel 2016 sia la burocrazia sportiva a decidere parte dei campionati. Non so cosa ne pensate voi, ma a me questa cosa non piace. No, questo del paracadute è un po' un pasticciaccio all'italiana e su cui c'è da riflettere, e voglio convocare nei prossimi giorni Marco Berinazzo per illustrarci esattamente qual è la situazione che si potrebbe venire a creare da un punto di vista potenziale. Michele, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno, grazie per la convocazione. A lei. Io ho due argomenti che vorrei sentirvi, le vostre risposte. Sì. Allora, il primo, io sono un tifoso viola e ho sempre considerato Montella sopravvalutato dai critici e anche da voi che vi ascolto tutti i giorni. Secondo me non vale la quotazione che dite. E poi il secondo argomento è un altro. Praticamente non so chi ha detto la frase di cosa state parlando, però è proprio il caso di dirlo. Cioè, io ho guardato i diritti televisivi, la Juve prende 234 milioni di euro, la mia squadra ad esempio prende 89 milioni di euro. Come può esserci competizione? Ditemi voi. No, ma infatti non c'è, eppure il sistema italiano è una via di mezzo tra quello inglese, dove c'è una che è il massimo della democrazia possibile dal punto di vista dei diritti televisivi calcistici, e il sistema spagnolo, che invece l'anno prossimo vedrà ancora più allargarsi la forbice tra i club ricchi e quelli che lo sono di meno. Purtroppo il sistema che si è venuto a creare favorisce le grandi squadre, le favorisce come introiti delle competizioni internazionali, le favorisce sul piano dei diritti televisivi, e questa situazione mi porta a dire che mai più vedremo una storia come quella del Leicester. È stato davvero un sogno in libera uscita che non tornerà. Scordiamoci di vedere qualcosa del genere in Italia, ma scordiamoci di vedere qualcosa del genere anche in Germania, in Francia, eccetera. Ci sono grandi corazzate in piccoli stagni che sono i campionati di appartenenza. Questa è la situazione e non credo possa migliorare. Poi in Italia c'è molto da lavorare su altri fronti, strutture di proprietà, eccetera, eccetera, ma sono tutte cose che già sappiamo che richiedono tempi lunghi e che richiederebbero anche legislazioni meno complicate. Torno al motomondiale con Roberto Ungaro, con questo messaggio di Lorenzo, perché Rossi aspetta il setup di Lorenzo. No, non è così, c'è una condivisione, ma non è questo. In tanti anche hanno detto via Lorenzo, sarà poi un problema per Valentino, perché comunque gli passa tutto quanto. Ti ricordi, Carlo, si era anche lamentato: Lorenzo mi copia perfino le marce. Non è così, non c'è più il muro, non c'è una condivisione totale, ma ognuno ovviamente fa le sue scelte, la sua strategia di setup, ma non è assolutamente, la risposta è no, cioè Valentino non è lì che aspetta e copia quelle che sono le indicazioni. Altrimenti andrebbe fortissimo anche lui fin da subito, come fa, certo, Lorenzo. Certo. Il fatto che ci metta così tanto ad arrivare è perché segue la sua strada, a volte la prende, a volte invece la sbaglia. Mugello, proprio per il ragionamento che stavamo facendo prima, cioè con una classifica in cui 0-0-0, in cui tutto si è ricompattato, rischia di essere la prima gara in crocio della stagione. Sì, sì, perché in terra europea, guarda, io ti dico, Jerez è stato un po' uno stupore, nessuno si aspettava un Valentino così, sinceramente, a casa degli spagnoli, su quella pista lì dove le differenze sono minime, anche il decimo è tanto, è stata un po' l'anomalia. Poi Le Mans, altra pista un po' particolare, ma questi zero, grazie a questi zero, si riparte da qui, dal Mugello. Questo vuol dire magari essere un vantaggio per Valentino, perché gioca in casa, ma non dimentichiamoci di Lorenzo, che il peggior risultato che ha fatto è stato un secondo posto. Lorenzo al Mugello va fortissimo, lui è impermeabile all'emozione, non gliene frega niente, sa gestirsi molto bene a livello di testa, solo parlare sbaglia, ma quindi vuol dire che in casa degli italiani può fare colpaccio, anzi gode ancora di più a portar via la coppa più grossa a Valentino, sì, davanti ai suoi, sì, capisci, sì, cosa voglio dire? Sì, come no. E quindi prima parlava di soldi, giustamente, che fanno la differenza, anzi sono quasi, chiusa parentesi tutto, ho saputo delle indiscrezioni, delle offerte di Vignales, sai che è destinato a sostituire Lorenzo. Bene, Suzuki gli ha messo sul piatto 5 milioni, Carlo, mentre invece Yamaha è arrivato a offrire la metà, 2,5 forse 3. Lui, giovane, 22 anni, si potrebbe accontentare dell'offerta di Yamaha per avere una moto vincente. Poi bisognerà capire cosa farà il manager, perché poi è anche lui che decide. Però pare che sia tentato da questa offerta, anche se la Suzuki è molto competitiva, è cresciuta bene, lì sarebbe, diciamo, il re, perché ha già fatto il primo podio dopo tanto tempo con questa moto e il progetto comunque è consistente. In Yamaha avrebbe quella che è la moto più bilanciata, ieri primo secondo e poi Vignales a 14 secondi, e nella testa di un pilota pensare che potrebbe avere l'anno prossimo la moto che è là davanti nei primi due posti a 14 secondi, eh sì, tu sai cosa vuol dire, perché il giovane pilota vuole la moto più, ancora prima dei soldi, poi bisogna vedere la gente. Esatto, ne abbiamo parlato prima che con Simone Galbusera. Valentino vorrebbe battaglia con il sì, con perché il si motiva, non vuole uno molle, non vuole un budino, certo, anzi, e quindi certo, fra i due sicuramente quello più motivato a reagire è Vignales, perché è giovane, è sfruttato, e ha così il fare del giovane inesperto che magari a volte lo può stuzzicare, pizzicare di più. Sì. Salto a Catanzaro, rimaniamo su due ruote. Ciao Piero Augusto Stagi. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Finalmente in Italia, Sì. Finalmente in Italia, lungo viaggio dall'Olanda, adesso possiamo chiamarlo Giro d'Italia. No, ma sto divagando e sto cazzeggiando. Perché ormai siamo abituati alle partenze all'estero. Viaggio di trasferimento, da adesso in poi cosa ci aspetta? Ma intanto non sono ancora arrivato a Catanzaro, mi mancano ancora 100 km, quindi il viaggio è lungo, trasferimento molto lungo. Sei andato in bicicletta? Domani c'è una tappa, c'è la prima tappa a Catanzaro, Praiamare, una tappa piuttosto insidiosa, non difficilissima, però a 10 km dal traguardo c'è uno zampellotto, come lo chiamerebbe Davide Cassani, al 10%, che potrebbe tagliare le gambe a quei velocisti puri, tipo Kittel, che rischia grosso, perché ha la maglia rosa, ha perso i 9 secondi e quindi deve veramente domani superarsi. Per lui una salettina al 10% fa un po' le Dolomiti, e quindi dovrà mettercela tutta per poter salvare la sua maglia, una maglia che lui ha detto almeno a parole di voler difendere il più possibile. Sì. Vediamo e vedremo. Ma, viene la bellissima, biondissima Tess a baciarlo dopo ogni futura vittoria? Scusa Carlo, non ho capito. Tess lo segue a Catanzaro? Perché se lo segue allora alla mezza terme è arrivato solo Soletto e coi suoi compagni di squadra. Solo Soletto e coi suoi compagni di squadra, senza la bellissima, biondissima Tess, che lo premia con un bacio appassionato dopo ogni vittoria. Però Kit è gran corridore, grande sprint. Gran corridore in tutti i sensi, e sta veramente riscuotendo un grande successo all'interno della Caravana Rosa. È stato adottato in Olanda, sicuramente, al pari di Tom Dumoulin, però anche qua in Italia probabilmente riscuoterà molto successo, visto che, diciamo, ha presenza fisica notevole. Sì, sì, sì, grande physique du rôle, come direbbe Berlusconi. Grazie Pier, ci sentiamo domani con la corsa. Ci sentiamo domani. Grazie. Andrea da Milano? No, non c'è più Andrea da Milano, allora chiudo il discorso con Roberto Ungaro. Ho questo messaggio: Valentino ha passato i due ieri e loro si sono messi a correre come dannati, sembra il campionato dove tutti si ammazzano per battere la Juventus, scrive Fabrizio. No, con te Roberto volevo Volevo chiudere con la Moto3, dove c'è stato Fenati, che è stato superato al penultimo giro ed è stata grande delusione. Sì, però ha controllato la corsa fin lì. Sì, guarda, questa è, alla fine manca sempre la ciliegina per questa torta che sembra meravigliosa, però poi tra l'altro polemica il sabato, perché c'è stato qualche duno che ha detto no, l'anno prossimo non sarà più nel team UR46, è saputo. È stato smentito questo giornalista in sala stampa diretta personalmente, proprio lui ha detto no, l'anno prossimo sarà tutto come prima, quindi Moto2, il progetto della WR46 va avanti. Certo che passare in Moto2 con un titolo della Moto3 sarebbe ben diverso, certo, la storia certo, non ti dimentica, certo. Mentre invece così, ahimè, il problema è che coi secco in mano si fa niente, conta nero su bianco la classifica che rimane negli annali, quindi questo titolo conta, bisogna l'albo portare d'oro. L'albo d'oro, è così. Grazie Roberto Ungaro, alla prossima. A te Carlo, saluto a tutti. E io ringrazio anche Alessandro Marco Tulli, il nostro autore, Federico Vini in redazione e Gianmarco Ferronato in regia. Ragazzi, ci sentiamo domani alle 2. Voglio, buon pomeriggio a tutti.